Tra i momenti di maggior suggestione di quel mondiale e di quel breve post-mondiale ci fu certamente non solo la collaborazione che ci offrì Fabio Tavelli da Sudafrica quotidianamente, ma anche qualche collegamento, qualche contributo che mano a mano che il mondiale sviluppava insomma i suoi effetti, i suoi risultati e di conseguenza i suoi effetti arrivavano da un po' tutte le parti del mondo. In particolare nel finale e nella finale quello che arrivò dalla Spagna e da Radio Cadena Ser della Noche de Estrella. Sentiamo. Van der Bar para Elia esférico, controla Elia con Ramón. Nada, te has tirado cara dura. Bola que tiene Navas se va, le agarra Van der Bar, vamos. Sigue Navas, progresa Navas, mira cómo le persigue Neider, aguanta Navas, el balón para Iniesta, Iniesta de espuela, toca para Fábregas para Navas, Navas para Torres, vuelve a descargar Torres, descarga. Ah, mira Fábregas para Iniesta, Iniesta chuta. Iniesta, Andresito, gol de España, gol de Andrés Iniesta, España 1, Holanda 0, vamos chavales, queda muy poquito, hay que pelear hasta el final. Pazzi da legare, come avrei potuto tornare a verificare una volta di più.